35 anni. Questa signora già non è nemmeno una persona, ha 45 anni, non è che quando me deve mandare a mangiarsi 120, fino adesso con la vergogna di non mangiare 320 a me. Come? Ho detto, scusi, non ho capito, 120 fichi vigna, non è dolore alla pancia, oh, niente chili. Io ci sono parecchi vicini, lo è avvenuta, ma la sente 120 sono per me, 120 chili, quasi 120 fichi vigna. Saranno quasi 5 kg se lo devi vedere lo fame quando si sbucci, credo è occhia croce, ma se ma una decina sono già troppo, sono già esagerate, lo sai, non avrei mai a terra che pulsai. Allora praticamente gli hanno dovuto, se ti dico la cosa, gli hanno dovuto entrare le dita dentro per togliere lì fuori, c'è mai blocco il blocco intestinale.